Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Zonker. Musiche originali Chris Jan, voci recitanti Maria Faggiano, Giuseppe Valzania, Cristian Crescente, Roberto Mercadini, brano di chiusura Pepe Medri, testi tratti da Blogdad di Enzo Baldoni, Torre di Babele di Pino Scaccia, cartoline da Baghdad di Francesco Locane. È tornato il momento di partire. Da un po' di tempo la solita vocina insistente tra la pancia e la coratella mi ripeteva Baghdad, Baghdad, Baghdad. Ho dovuto cedere. Come sempre, quando si prepara un viaggio importante, cominciano a grandinare le coincidenze. E chissà quanto sono segni e quanto le provochiamo noi. Ancora una volta, prima di una partenza, mi sono sdraiato sotto le stelle, nella Romagna dei miei nonni e della mia infanzia, in cima a Monte Bora, sulla terra notturna ancora calda del sole di luglio. La terra, sotto, mi riscaldava il corpo. La brezza, sopra, lo rinfrescava. Lucciole, profumo di fieno tagliato, il canto di milioni di grilli. Si è parlato molto di morte in questi giorni, della morte serena di zio Carlo, filosofo e yogi, che forse sapeva la data del suo trapasso. Guardando il cielo stellato, ho pensato che magari morirò anch'io in Mesopotamia e che non me ne importa un baffo. Tutto fa parte di un gigantesco, divertente minestrone cosmico e tanto vale affidarsi al vento, a questa brezza fresca da occidente e al tepore della terra che mi riscalda il culo, l'indispensabile culo che finora mi ha sempre accompagnato. Thank you. Sabato 24 luglio 2004. Sembra paradossale, ma il problema sull'Iraq è che c'è troppa informazione. In Iraq sono già passati tutti. Decani del reportage di guerra, mezzi busti da sbarco, giornalisti embedded, e i loro pezzi sono tutta una raffica fragorosa di scoppi e spari. Passiamo sotto il fuoco! La macchina sforacchiata dei proiettili! Rimbomba una forte esplosione! Il mio fedele autista! Gli uomini di Assad ci circondano! Si sentono raffiche in lontananza! Salta una mina di fronte a noi! Volute di fumo nero! Un uomo in fiamme! E la Madonna! E vorresti sapere tutto, leggere tutto, informarti di tutto in una specie di bulimia che alla fine ti strozza e ti ingolfa. Per fortuna la dritta giusta me l'ha data l'altro giorno Giacomo, giornalista di quelli veri. Mica come me, che in fondo sono solo un turista di guerra. A volte dice l'ignoranza è un vantaggio. Arrivi senza preconcetti e, per sbaglio, ti capita di vedere quello che gli altri non vedono. Lo sguardo di Candide. Mi piace questo approccio. Meno faticoso. Mi piace l'idea di viaggiare per sbaglio. Mi rilasserò, sì. E andrò dove mi guida la panza. E speriamo il culo. Ah, a proposito di culo, mi sono comprato un costumino rosso di Farré, uno che di panzoni se ne intende, che mi sta come un figurino. Seduto a gambe incrociate, sono entrato in uno stato di profonda meditazione e contemplando il costumino di Farré, ho trovato l'obiettivo di questo viaggio. Stare 20 giorni spaparanzato nella piscina del Palestine. Posto tranquillo, pochi turisti. Chissà se c'è figa a Baghdad. Vai a cercare figa a Baghdad? Ma sei da internare, per certe cose si va in Thailandia, Cuba, in Colombia. Guarda, al limite in Birmania. Un po' più improbabile Timor Est, però insomma, Baghdad. Andare a Baghdad per scopare come farsi spalmare di napalm per abbronzarsi. Non può essere sano di mente uno che va a figa a Baghdad. Altro che la testa, l'uccello ti tagliano in Iraq. Se vuoi scopare, non puoi andare come tutti quanti a Rimini, a Cannes o a Fuerteventura? Non potevi fare turismo sessuale come tutti i mariti? No, a lui solo il rischio lo eccita. Ma io ti faccio internare. Come gli altri anni che ti ho messo a Villa Tranquilla con due flebo nel braccio. Già, ma che fatica a condizionarti e farti credere di aver viaggiato davvero. Mentre eri in coma farmacologico ti abbiamo dovuto leggere tutto Kipling, Le Carré, Garcia Marquez... E proiettare infinite volte Salvador, un anno vissuto pericolosamente, Operazione Burma, Lampi sul Messico, Viva Viglia, My Name is Carla. E Casablanca? Quante volte ti abbiamo proiettato Casablanca? Dio, che due maroni, ce l'hai anche sul telefonino la musica. E i fotomontaggi? Ore e ore di Photoshop per farti credere di aver viaggiato davvero e incontrato Marco, Sicaren, Xanana, le guerrigliere colombiane. Ma l'invenzione di Mariana... Quella è stata geniale. La comandante guerrigliera dura e pura. Uno stereotipo a cui nessun maschio medio potrebbe resistere. Mica solo noi donne subiamo il fascino della divisa. E Biancaneve? L'amore impossibile con la moglie segreta di Xanana Gusmao. Lì devo proprio farmi i complimenti. Un colpo da vera maestra. E grazie, mi sono letta tutta la collezione Harmony per ispirarmi. Ma il guaio... è che quando ti svegli dal coma artificiale racconti. Bisogna sopportare. In fondo sei un bravo padre di famiglia, onesto, lavoratore. Ogni tanto ti vengono di questi bovarismi, ma io ti faccio internare. Voilà! Capito perché ogni tanto mi tocca scappar via di casa e rifugiarmi in qualche posto sicuro, dove il nemico lo riconosci dalla mimetica e le donne sfoggiano le loro armi a viso aperto? Thank you. Francoforte, sala d'attesa dell'aeroporto. C'è una strana coppia. Lei, giovane e bella, il viso affilato strettamente avvolto nel velo islamico. Lui, una faccia crudele da furetto, pochi capelli, l'aria libanese o palestinese. Lei, pallidissima, sembra angosciata, molto tesa. Tutti e due sembrano nervosi. L'Airbus 300 della Lufthansa è semivuoto. La partenza ritarda. Il comandante avverte che stanno ricontrollando tutto il bagaglio perché un passeggero, dopo aver fatto il check-in, non si è presentato. Il mio vicino, un giovanotto dall'aria atletica che viaggia solo, emette un grugnito preoccupato. Mi giro. Qualche sedile dietro di me c'è la coppia della sala d'aspetto. Continuano ad avere l'aria tesa. Ci fantastico un po' su. Dunque, sono dirottatori. Vengono da un passato di campi profughi e di rabbie e tra un po' lei, con un coltellino di ceramica, taglierà la gola britta alla bella hostess bionda che sta servendo il caffè. Mi chiedo cosa farei in caso di dirottamento. Beh, credo che prima di tutto butterei via il passaporto italiano e mi farei passare per svizzero. Poi cercherei di chiamare Nico Tanzi della TSI col cellulare. Prenderà 10.000 metri. Ma sì. E offrirei ai dirottatori la possibilità di dire in diretta le loro ragioni attraverso la radio svizzera. Cazzo che scoop! Poi l'aereo dirottato su Damasco, l'atterraggio nel buio, l'aereo circondato dalle teste di cuoio tedesche, una breve sparatoria nell'oscurità, l'odore di cordite, le urla di paura, ordini secchi in tedesco. Poi, alle luci delle pile, tra il fumo che ancora esce dalle canne dei mitra, il corpo della sconosciuta dal viso affilato ancora più pallido, il velo islamico intriso di sangue intrecciato al corpo di Britta nell'uniforme blu della Lufthansa anch'essa intrisa di sangue. Probabilmente nella realtà me ne starei buono, a testa bassa, cercando disperatamente di mantenere il controllo degli sfinteri. La mia quarta volta in Iraq. Le differenze le noti il primo giorno, le senti dentro, quando dalla tua normalità, fatta di lungomari splendidi, piazze festose, tanti colori, sprofondi in un altro mondo. All'improvviso il panorama diventa pesante, pieno di morte e paura. Un ragazzino di Baghdad, ad un checkpoint americano, mi ha chiesto che cosa ho fatto in questi mesi, come se l'unico mondo fosse questo, l'inferno iracheno. Mi è stato difficile spiegargli che esiste un altro mondo, privilegiato, in cui la miseria non è un incubo e neppure sparano bombe a tutte le ore. Dall'anno scorso non è cambiato molto. Ho visto il filmato dell'esecuzione dell'ultimo ostaggio, un turco. 3 colpi alla nuca, uno dietro l'altro. Allucinante la freddezza del killer. Allucinante soprattutto il sorriso del soldato Lindy, quella giovane donna in divisa fotografata con un uomo portato al guinzaglio, come una bestia. Giordania, Amman. Hotel Crown Plaza Amra. Prenotato autorevolmente a un ottimo prezzo da quello che gli inglesi chiamerebbero una Old Iraqi End, a cui sono arrivato attraverso la cugina messicana che ha una cara amica con cui è andata a scuola a Firenze, nata e cresciuta a Baghdad e che ora vive a Bruxelles. Insomma, uno di quegli intrecci in cui ti imbatti appena metti il naso fuori di casa. In Giordania chiese cristiane e moschee convivono spesso fianco a fianco e i luoghi santi come la tomba di Mosè o la riva del Giordano, dove Giovanni battezzò Cristo, sono condivisi. È un paese antico e pensoso la Giordania, che ha visto passare i Nabatei, Alessandro Magno, i Romani, i Bizantini, i Maomettani e i Crociati. Ha visto combattere il feroce Saladino e l'ancor più feroce Renò de Châtillon. Ha visto ancora gli Ottomani, gli Inglesi, il Lawrence d'Arabia e, infine, l'invasione pacifica dei palestinesi in fuga dalla loro terra. La Giordania è tollerante. Vedi la nonna con il viso coperto, la mamma con il solo velo islamico e le figlie con i capelli liberamente sciolti all'aria. Se penso che a ovest c'è la Palestina, a est l'Iraq e a nord la Siria, un paese così in pace sembra un sogno. A 15.000 piedi a picco sopra Baghdad, il piccolo Fokker F-28 delle Royal Wings giordane vira stretto. Punta il muso in basso ed entra in una spirale vertiginosa, giù, giù, ancora giù. Tutto sbandato a sinistra in cerchi sempre più stretti. Il mio vicino di poltrona si aggrappa al bracciolo. E giù, giù, giù, l'aereo scende di 5.000 metri in 6-7 minuti. Ecco Baghdad. Ci abbassiamo ancora. Il Fokker riprende l'assetto orizzontale. Picchia deciso. Ecco il palazzo di Saddam. Questo è il momento più pericoloso. Ecco la pista. Touchdown. Ladies and gentlemen, welcome to Baghdad International Airport. Ma ho trovato una situazione normalmente tesa per un paese in guerra, l'aeroporto deserto, tutto presidiato dalle guardie private. La prima raccomandazione che mi hanno fatto è assolutamente, se non c'è uno fidato che non ti viene a prendere, rimani in aeroporto. Io me ne sono fottuto, ho preso un taxi e anche se con qualche patina poi sono arrivato tranquillo al Palestine. È una città tesa, nervosa. Anche ieri dei poliziotti hanno sparato in aria per un'infrazione, cioè hanno fermato uno, questo qui si è messo a urlare, ha spiccato i poliziotti hanno cercato di fermarlo, la folla è saltata addosso i poliziotti hanno tirato fuori la pistola, hanno sparato il bottinale. Qual è il rapporto tra americani e iracheni adesso? Direi che si è accentuato terribilmente il solco tra gli americani e gli iracheni, nel senso che gli americani sono stati veramente arroganti, violenti, poi le storie di Abu Ghraib, del carcere, ma proprio anche la vita quotidiana, tu li vedi, c'è proprio adesso odio negli occhi degli iracheni nei confronti degli americani. Gli americani sono stati accolti come liberatori, adesso sono mal visti o addirittura odiati dalla popolazione. Che cosa è successo? È stata una serie di grossi errori degli americani. Intanto gli americani hanno una paura congenita di tutto quello che non è americano, nel senso che proprio culturalmente per loro quello che è americano è la cosa migliore del mondo. Hanno paura che se mangiano uno spiedino per strada sia avvelenato e non hanno per niente la cultura dell'andare incontro allo straniero. Gli americani arrivano col mitra spianato diffidenti e dicono: che cosa, tu mi offri il tè? No, perché mi fa venire almeno la diarrea. Ora hanno questa vecchia cosa che appena passano la frontiera messicana sono terrorizzati dalla maledizione di Montezuma. E questo è culturale, è drammatico. Cioè io ho fatto amicizia con un paio di ragazzi americani del checkpoint qua e un certo Nathan, di cui trovi le fotografie nel blog fra l'altro, e questi ragazzi dell'Oregon, che sono dei bravissimi ragazzi della Guardia Nazionale, sono convinti che stanno liberando l'Iraq e non capiscono perché la gente li guarda male. E poi devo dire che ho visto i Marines in azione e sono veramente di un'arroganza. Però io cerco di evitare gli anti-americanismi di principio, perché penso che sia stupido essere anti-americani per principio. però veramente, cioè arrivano questi colonimenti che mi tra gli scarponi e senti, che loro sentono, che noi siamo i padroni del mondo e non rompermi i coglioni. Deliziosa cenetta con barbecue nel giardino del Palestine. Dopo una giornata di calura mi appresto ad andare a dormire quando sento un'esplosione piuttosto forte. Nudo bruco, vado sul terrazzino e guardo verso il Tigri. Sull'altra riva, quello dove c'è la Green Zone e i palazzi della coalizione, mi pare di scorgere una colonna di fumo. Mentre scruto nella notte di là del fiume scuro e tranquillo, proprio sotto al mio naso, kaboom! Un lampo. Uno scoppio. Una nuvola di fumo nero. Mi chino al riparo del parapetto. Urla. Alzo cautamente la testa. Distingo nel buio gente che corre. Spari. Raffiche di mitra. Mi riabbasso. Che faccio? Sto al riparo, corro il rischio di beccarmi una pallottola. La prima che hai detto, brother. Striscio in camera, spengo tutte le luci per non diventare un possibile bersaglio. Raffiche di mitra dalla strada. Sti cazzi, questi sparano, eh? Torno fuori con cautela, sbircio da sopra il parapetto. Leanvi e Bradley prendono posizione intorno al luogo dell'esplosione. Guardo meglio. Porca puttana. È scoppiato qualcosa a 10 metri dal barbecue dove ho cenato 2 ore fa. Speriamo che i cuochi avessero già chiuso. Erano simpatici, anche se cari ammazzati. In cielo passa una pascia a luci spente, nero opaco, veloce. Che faccio? Cerco tastoni la pila, mi infilo i pantaloni, la camicia. Non trovo le mutande. Sorvolo. Scendo in basso. C'è la troupe di Pino Scaccia. L'albergo circondato dagli americani della prima cavalleria armati fino all'impossibile, molto, molto nervosi. Mi infilo in un'apertura della muraglia di cemento armato che circonda il Palestine. Sfiero un marine che sta parlando in una retrotrasmittente. Giubbetto antiproiettile, visore notturno, elmetto al Kevlar, pistola, mitra M4 con lanciagranate e altri gadget tecnologici di cui non saprei dir la funzione. Agli occhi stretti il viso imperlato di sudore. Sento distintamente il suo odore acido. È paura. Rientrando vedo la moschea azzurra, bellissima. A fianco una stupenda luna calante. Una piccola oasi di bellezza, di pace nella notte di velluto. 10 metri dietro di me, opliti imbottiti di tecnologie iper sofisticate e pieni di umanissima paura, gracchiano ordini nelle radio, stringendo con le mani sudate il calcio dei mitragliatori. La luna di Baghdad. La luna di Baghdad è diversa da tutte le altre, perché non è una luna, sono due. Accanto alla solita luna ce n'è un'altra, di colore rosso. È il fuoco perenne della raffineria di Aldora, simbolo forse della guerra. La seconda luna sta sempre lì, accanto alla luna vera, e illumina e angoscia le nostre notti. Nei momenti più brutti chiudo le tendine. È un gesto istintivo. Non so se lo faccio per nascondermi o per non vedere quello che succede fuori. Chiudo le tendine quando la botta è più forte e sai che la granata è arrivata proprio sotto di te. Stanotte ho conosciuto Enzo Baldoni, la prima volta in cui non ho chiuso la tendina. Ma sono sceso sotto a vedere l'effetto della bomba. Thank you. Stasera finalmente a cena fuori dal recinto del Palestine. Ceniamo in un kebab sulla strada. Nessuno parla inglese. Non esistono menù e nemmeno la birra. Ma il pollo è delizioso. Si mangia con le mani, chiaro. Garib è ingegnere, intelligente e molto colto. E come gran parte dei palestinesi parla un discreto inglese e conosce bene la storia. Una compagnia piacevole. E poi è più grosso di me e somiglia moltissimo a un certo Jody di cui sono molto amico. Cosa chiedere di più della vita? Ma magari una bimba. Devo avere l'onnipotente dalla mia parte perché mi esaudisce in 10 secondi netti. Il guaio è che deve essere un po' sordo. Avevo detto bimba, signore, bimba, non bomba. Uno scoppio. Un altro. Subito un terzo. Allora cominciamo a contare. 4. 5. 6. 7. Questa è la reazione alla conferenza stampa del primo ministro Allawi, che oggi non ha dato la minima chance alla resistenza. 8. Nella zona verde partono le sirene. Le suonano adesso le sirene, a chi è ferito non serviranno un granché. 9. Passano veloci 4 ambis. Settano un faro sulla folla. 10. La gente è tranquilla, continua a mangiare e ridere. I missili sono diretti sulla zona verde, quartier generale statunitense. 11. 12. 12 bombe nel giro di un'ora. Difficile sottovalutarne il significato simbolico. Fantastici americani. In un anno di arroganza, violenza, maltrattamenti in carcere, arresti illegali e disordini, sono riusciti a sprecare tutto il capitale di credibilità che si erano costruiti con la cacciata di Saddam. Adesso anche chi li aveva festeggiati all'arrivo non aspetta altro che si tolgano dai coglioni. 2 minuti fa la prima bomba, e poi tutte le altre, fortissime, vicine. Quelle sirene del comando americano che, ululando, aumentano l'angoscia. Una botta è arrivata proprio mentre trasmettevo il pezzo. Sono stufo di raccontare storie di bombe. Non è facile spiegare come si fa adesso ad andare a dormire, quando la notte dei tonfi sordi è appena cominciata. Enzo Baldoni mi scrive che sta abbandonando il Palestine, che diario è chiuso per tutto agosto e se ha qualche notizia mi contatta e me la passa. I mujahideen sono arroccati a Fallujah. Gli americani li assediano. È lì che Garib deve portare qualcosa. Io non indago, non voglio sapere niente, ma sono certo che si tratta di aiuti umanitari. Partiamo la mattina di buon'ora. Io lo copro con gli americani e i loro cani da guardia iracheni. E lui mi copre con i mujahideen. Insomma, lui è diventato il mio Amanna, l'angelo custode, e anch'io sono il suo Amanna. Garib è nervoso. Pensare che questo ragazzone più alto di me ha guidato un'ambulanza carica di 10 feriti a Fallujah, e quando i cecchini americani gli hanno sparato addosso, cosa ha fatto? È riuscito comunque a portarsi via macchina e pazienti. Le auto procedono lentamente sull'autostrada. Il traffico è scarso. Nei dintorni di Fallujah la strada è bloccata. Giriamo a destra. Altro blocco. Continuiamo a girare da un posto di blocco all'altro. La città è stretta d'assedio da gruppi di marines e di soldati iracheni. Sono accaldati, nervosi e col dito sul grilletto delle mitragliatrici. Garib sterza di colpo e butta la vecchia Nissan bianca in una stradina. Ci infiliamo tra i canneti e raggiungiamo le case. Ecco il posto di blocco dei mujahideen. Non dire niente, parlo io. La macchina, lasciala nella borsa, mi dice. I mujahideen sono molto armati, molto vestiti di nero e molto sospettosi. Sì, ma in questo posto di blocco c'è un non so che di poco organizzato, di improvvisato. In un angolo, 2 di loro accaldati chiacchierano tranquilli. Poco lontano, un vecchio che ride. Nulla della massiccia sistematicità dei marine. Hai l'impressione che da un momento all'altro uno di questi possa abbracciarti offrendoti un bicchiere d'acqua o indifferentemente spararti una raffica a bruciapelo. I mujahideen lasciano passare la Nissan bianca che raggiunge una casa vicino a 3 enormi serbatoi di benzina. Cazzo, Garib, ma questa è la prima cosa che fanno saltare! Arrivano 2 bei ragazzi in lunghi vestiti bianchi che abbracciano Garib. Si apparta con loro. Dopo 10 minuti è da me. Dobbiamo andare via subito, mi dice. Siamo stati a Fallujah, io e Garib. che è il mio interprete amico e Angelo Custode soprattutto, sono andati per consegnare degli aiuti e dei denari a una organizzazione non governativa e siamo andati per così dare un saluto di solidarietà ai giornalisti di questo primissimo giornale indipendente a Fallujah. Fallujah è controllata per ora dai mujahideen armati. Abbiamo avuto dei momenti di tensione perché proprio ieri è stata emanata una fatwa contro tutti gli stranieri, contro tutti i giornalisti, contro tutti i fotografi e naturalmente tutti gli americani, i cani e i servi del loro padrone. Quindi noi praticamente siamo, la città è completamente bloccata, quasi completamente bloccata dagli americani che la assediano. E dentro c'è tensione. Noi siamo entrati dalla stradina secondaria, così abbastanza fortunosamente, siamo arrivati nella sede di questo giornale dove ci hanno guardato come se fossimo matti, abbiamo consegnato gli aiuti che sono voluti portare, poi immediatamente ci hanno preso e ci hanno scortato fuori. E addirittura a me hanno detto guarda assolutamente cerca di sembrare iracheno, non sai che sei straniero, addirittura mettiti seduto dritto in un certo modo, guarda davanti, non guardare negli occhi, non tenere la mano alzata, tutta una serie di cose, fotografare naturalmente, non se ne parlava neanche. E al posto di blocco di Mujahideen uno dei giornalisti che ci scortava è andato avanti, ha fatto un po' di casino in modo di estrarli e allora noi abbiamo fatto segno, ok andate, eccetera. Io non so in realtà che rischio abbiamo corso, secondo me non è che abbiamo corso rischio particolarmente elevato. Cioè, c'è tensione, la cosa peggiore è che a Fallujah sono divisi, i mujahideen l'uno contro l'altro, le moschee l'una contro l'altra. E Garib dice uscendo e detto guarda secondo me Fallujah è fottuta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La notte cupa di Baghdad in guerra. Lunghi viali vuoti, pochissime auto, molti posti di blocco, strade chiuse da bidoni e mucchi di sassi. Uomini seduti nell'oscurità a fumare e a far la guardia nella calura soffocante. Alla radio la voce monotona di una qualche autorità religiosa minaccia la guerra santa contro tutti gli stranieri. Si stringe il cuore a vedere questa città deserta dove il coprifuoco, anche se non imposto, esiste. Ma ecco una luce. Una bancarella illuminata. Gente che sta mangiando. Le fiamme del kebab. Sono ormai le 11:30. La notte sembra tranquilla in questa parte della città. Ci sediamo in un ristorante e prendiamo una birra. All'improvviso un gran vociare, raffiche lontane, colpi di pistola. Ecco, ricominciano. Le raffiche si avvicinano, 5-6 colpi di pistola all'angolo della strada. Porca puttana, dovevamo andare a casa prima. Sparatoria generale. Siamo circondati dagli spari. Dal portone di fronte esce uno in mutande con un Kalashnikov e spara raffiche in aria. Sono veramente spaventato. Mi rannicchio sulla sedia. Garib mi guarda e ride. Sti cazzi. Stasera c'era Iraq-Portogallo, 4-2 per l'Iraq. E intanto io mi sono cagato sotto dalla paura. Le strade si riempiono di invasati che sparano in aria. Debbono esserci più armi in Iraq che telefonini in Italia. La serata finisce con un paio di tifosi cordialissimi seduti al nostro tavolo che mi abbracciano, si felicitano per la vittoria e mi insegnano come un vero uomo regge il suo AK-47. Ma com'è che vado sempre a finire con un Kalashnikov in mano? Chi mi conosce sa che sono un uomo di parola. Avevo promesso che avrei passato 20 giorni nella piscina del Palestine col mio bel costumino rosso? Sto facendo del mio meglio per mantenere un proposito così virtuoso. D'altronde, in tempo di guerra, le piscine hanno dei vantaggi indiscutibili. Niente femmine starnazzanti, niente marmocchi urlanti e in genere gli uomini sono via a compiere i loro doveri di uomini. Le guardie del corpo guardano i corpi. I militari pilotano gli elicotteri, brandeggiano le mitragliatrici e fanno la guardia ai bidoni di benzina. I ribelli si ribellano vuotando caricatori interi dei loro AK-47. Dio abbia in gloria il generale Mikhail Kalashnikov, che ha inventato un'arma che non si inceppa mai. Uno dei pochi successi di global marketing dell'industria sovietica. E i giornalisti? Beh, mentre la maggior parte dei giornalisti occidentali sta al computer a cucinare dispacci ANSA e Reuters, chi va davvero sotto il fuoco a cercare immagini e notizie sono i fixer, i giornalisti e gli operatori iracheni. Bravissimi, professionalissimi, ma pagati malissimo. Così capita di trovarsi una piscina da 25 metri tutta per sé. Al massimo qualche muscoloso e tatuato giovanotto di poche parole che si fa le sue 10 vasche sott'acqua senza respirare. Prende un po' di sole, si asciuga e se ne va. Ho fatto visita all'ospedale italiano della Croce Rossa italiana, qui all'ospedale di Baghdad, e appena ho incontrato il direttore dell'ospedale, io ho scoperto che era Beppe De Santis, un vecchio amico di Croce Rossa, per cui ho passato ieri pomeriggio, poi di ritorno a Fallujah, ho passato a questo ospedale della Croce Rossa, dove ho scoperto che sono bravissimi, cioè non esisteva un reparto grandi ustionati in Iraq e l'hanno costruito dal niente, perché si sono trovati qui e gli ospedali c'erano in realtà, perché Baghdad è pieno d'ospedale, e si sono improvvisati in qualche modo. C'è questo medico molto bravo che si chiama Mimmo Prete, che mi ha detto: oh, eravamo lì, c'era un incendio, stavo prestando soccorso, uno mi butta in mano un corpicino carbonizzato, era un bambino che urlava, e un medico iracheno mi fa: guarda, buttalo via quello, tanto oramai è morto. Dico: ma come cazzo è morto? No, dico, l'abbiamo perfuso, l'abbiamo preso, l'abbiamo ricoverato e abbiamo fatto di tutto, abbiamo passato le notti vicino a lui per salvarlo, non siamo riusciti a salvarlo, però gli abbiamo perlomeno impedito di morire tra dolori atroci. E così è venuta l'idea alla Croce Rossa italiana di fare un reparto grandi ustionati che a Baghdad mancava, perché la mentalità è che se uno ha più del 45% di ustioni è morto, quindi non vale la pena né di dargli morfina né altro, perché qui il concetto poi di medicina gratuita è completamente sconosciuto. E quindi questi qui mi dicono: senti, noi abbiamo salvato 96 pazienti che sarebbero morti e poi altri 1000 invece che ci sono morti fra le mani, però perlomeno li abbiamo aiutati a morire decentemente. E poi mi hanno portato per i reparti e io non sono un tipo particolarmente impressionabile, cioè ho visto questi ragazzi bruciati, però c'era una bambina di 4 anni a metà bruciata che mi ha fatto un sorriso e insomma confesso che mi sono messo a piangere. Ho ancora nelle orecchie le urla dei due soldatini iracheni orribilmente bruciati dal fuoco amico degli F-16 e il lamento di una bimba tutta avvolta nell'alluminio, misericordiosamente intontita dalla morfina, che ripete incessantemente con voce indifferente il nome di non so che giocattolo. Facciamo un giro per i reparti. Ci avviciniamo a un piccolo paziente sdraiato. Vicino a lui c'è il papà, un bel signore elegante nella sua lunga tunica blu. Lo chiama. Ahmed, guarda questo signore italiano che ti vuol fare la fotografia. Io vorrei dire no, lasciatelo in pace, povero Cristo. Ma anche Anna, l'infermiera, che sa quel che fare, lo chiama. Ahmed, get up. Forse gli fa bene reagire agli stimoli. Allora, tremolando, aiutato dal padre, un troncone umano annerito e parzialmente coperto di creme, che forse è stato un ragazzino, si alza a fatica, senza dire parola. La faccia è una crosta immobile in cui solo gli occhi riescono a roteare verso di me. Impressionante. Misericordiosa morfina. Poco distante c'è una bambina piccina, ma proprio piccina, è vegliata dalla mamma. Le braccia completamente fasciate, parte del viso è bruciato. Guardo quel corpicino che avrà 3-4 anni. penso alla mia Gabriella. Quando era piccina, così. E allora non ce la faccio. E a me, Denora, cazzo, quanta sofferenza, Dio buono. Mi metto in un angolo e cerco di non far vedere a nessuno che sto cercando di ricacciar giù lacrime prepotenti. Manna se ne accorge. Mi prende sotto braccio e mi sussurra. Su, su, sei già stato abbastanza bravo. Mica tutti riescono a entrare in questo reparto. Negli ultimi giorni abbiamo perso 3 bambini piccoli. È dura per noi, sai. Siamo quasi tutte mamme. Ma Nora invece ce la farà. Dai, torniamo da lei. Facciamola ridere. Tira fuori dalla tasca 3 caramelle. Gliele fa vedere e dice... Nora, me lo dai un bacino? Se mi dai un bacino, caramelle. E Nora sorride. Porge la guancia. Spunta un sorriso nel bel faccino bruciato a metà. Sorride la mamma di Nora. E adesso sorrido anch'io. Il personale qui è ammirevole. Non si risparmia. Stanno caricando camion e ambulanze di medicinali destinate a Najaf. Hanno già l'autorizzazione delle autorità islamiche, ma più di tutti hanno paura degli americani, che hanno il curioso vizietto di sparare sulle ambulanze. Partiranno appena avuto l'assenso della coalizione. Insieme al convoglio viaggeranno lo scafatissimo Pino Scaccia e il suo delizioso operatore Norberto Sanna. E uno sconosciuto volontario del soccorso con un gran culo. Vivo più velocemente di quanto riesca a scrivere. Ma facciamo un passo indietro. Najaf è assediata, Muqtada è ferito, la popolazione è senza acqua e senza medicinali. E se glieli portassimo noi? Mi fa Garib. Oh, ma sei scemo? Gli rispondo. Per niente, perché non chiami quel medico alla Croce Rossa, Peppi? Proviamo a chiedere a lui. Beppe, si chiama Beppe. Già, ma se poi l'esercito del Mahdi vede le croci e ci spara addosso? E tu non ti preoccupare, andiamo alla Croce Rossa e parliamo con Peppi. Beppe! Sì, Peppi, cosa ho detto io? Parliamo con Beppe De Santi, semimo prete. Sono immediatamente entusiasti dell'idea, ma la loro preoccupazione è identica alla mia. Non si può partire senza i permessi delle autorità di Najaf, cioè di Muqtada al-Sadr e dei suoi uomini. Non preoccupatevi, mi conoscono, ho già portato aiuti umanitari. Lasciatemi fare un paio di telefonate. Diavolo d'un uomo. Nel giro di un'ora, col suo Nokia da 50 euro, ha già tutte le autorizzazioni necessarie da parte dell'esercito del Mahdi. Beppe fa un paio di controlli incrociati. Poi riunisce le donne e gli uomini del gruppo, italiani ed iracheni. I ragazzi vorrebbero andare tutti, allora via, in una specie di gara febbrile si vuotano i magazzini. Si cominciano a caricare camion di bende, garze, disinfettanti. Si avvia il potabilizzatore che sforna una dietro l'altra migliaia di buste di acqua filtrata e sterilizzata. Intanto De Santis chiede i permessi a Roma. La risposta è tiepida. Gli americani non spareranno sul convoglio, ma nemmeno lo scorteranno. Avviseranno i loro posti di blocco e le truppe, ma speriamo bene. Mi butto esausto sul letto. Garib continua a telefonare, tessendo la sua rete di contatti umanitari. A 00:30 squilla il cellulare. È Beppe. Ha la voce stanca e scazzata. Ho appena parlato con Roma. Missione sospesa. Cosa? Oh, ma è assurdo. Abbiamo i camion carichi, gli equipaggi sono pronti. Lo so, è tutto il giorno che mi faccio il culo. Ho fatto gli elenchi degli uomini, dei mezzi. Ho anche un lasciapassare firmato dal comando della coalizione, ma... La missione è sospesa, motivi tecnici. Problemi all'autoparco. Beppe, stai scherzando, vero? È la mia risposta ufficiale. Problemi all'autoparco. Chiudo. Buonanotte. Quando gli dico che la Croce Rossa ha sospeso la missione, Garib ride. Lo sapevo. Gli americani non vogliono che andiamo a rompere le palle dove stanno combattendo la loro guerra sporca. Ma tu lasciami fare qualche telefonata, intanto dormi. Si attacca al telefono. Dopo 10 minuti fa... Chiama Peppi, chiedigli se è disposto a darci il materiale. Lo portiamo noi. Affittiamo un camion e i soldi ce li metteremo noi. Ci sto. Chiamo Beppe. Voi avete problemi con i camion, vero? Esatto. Ma il materiale sarebbe disponibile per un'operazione umanitaria. Ovvio. Bene. Abbiamo trovato il modo di trasportarlo. Abbiamo affittato un camion. In questo caso, visto che ci sono persone ferite che è un'emergenza umanitaria, sono moralmente obbligato a mettervi a disposizione acqua e materiale sanitario. A domattina. A domattina. Non verrà nemmeno la RAI. Se è la mezzaluna che consegna, non c'è storia, non c'è glamour. E il ritorno è incerto. Potrebbe essere un giorno, potrebbero essere 7... E Pinuscaccia non se lo può permettere. È solo qua giù con una troupe piccolissima. Fa ogni giorno 12 pezzi per 3 telegiornali. Non può fare altro che restare al suo posto di combattimento. Enzo è rimasto malissimo per il mio mancato viaggio a Najaf con la Croce Rossa. Soprattutto non accetta quel divieto imposto da Roma. Polemizza, mi chiama in causa. Non sarei andato con la mezzaluna perché quelli della RAI vanno solo a girar marchette. Insomma, visto che non c'era Shelly, non sono andato. Sono furioso, reagisco. Preciso che la mia non è una piccola troupe. È una troupe normale. Un giornalista, un operatore, un montatore, un producer, un autista. Tutto quello che ci vuole. Aggiungo, ricordati che ti ammiro, ma le nostre posizioni sono diverse. Certo che le nostre posizioni sono diverse, Pino. Tu sei caricato di responsabilità, verso l'azienda, verso il mondo politico, verso gli ascoltatori, che io non ho. Tu sei un professionista, io un dilettante, ecco. Al massimo un dilettante nel senso nobile della parola. Non credere che non valuti a fondo quanto sia fortunato a poter decidere da solo. Non credo davvero che nessuno mi debba ammirazione, guarda. Faccio una cosa che mi piace, mi diverte e mi arricchisce, tutto qui. Non ho particolari meriti... se non una fortuna a volte perfino imbarazzante. Non vorrei entrare in polemica con te, che sei un compagno di trincea nel momento in cui a Najaf, Baghdad, Kut, Nasserie e Fallujah la gente muore. Lasciamo che siano i fatti a parlare. Il resto sono chiacchiere e politica, tutte cose da cui voglio tenermi lontano. La tregua di Najaf risulta finta, come era prevedibile. E poi ormai è evidente una saldatura religiosa nella Jihad. Gli americani bombardano anche alcuni quartieri di Baghdad. Possono farlo. Cioè, in tempo ufficialmente di pace, possono bombardare la città con i caccia, usando ordigni da guerra. Bisognerebbe che qualcuno cominciasse a chiederselo. In un negozio, dentro il Palestine, avevo visto un orologio che mi piaceva. Il negozio è stato chiuso per giorni. Oggi finalmente ha riaperto. Ho chiesto al ragazzo perché non avesse voglia di lavorare. Mi ha spiegato che non poteva uscire di casa. Poi ha sorriso e mi ha detto con sincerità che in questi giorni era impegnato perché ha sparato anche lui. Avevo visto un orologio. L'ho comperato. Si parte per Najaf. I retroscena della rottura dei camion sono intuibili. Visibilità, immagine, carriera politica, insomma, le solite cose. Siamo in zona Ferragosto, gli italiani sono distratti, quindi l'emergenza di Najaf può tranquillamente aspettare. Magari qualche giorno, il grande rientro, che poi intanto aumentano i morti e l'impresa brilla di luce più forte. Mentre gli uomini e le donne della Croce Rossa stanno qui sotto le bombe, in Italia qualche burocrate lontano, fedele agli ordini di servizio, cancella con un colpo di matita il loro lavoro. Certo, è solo un'impressione, un'illazione personale, ma mi sembra tanto, tanto credibile. Nel piazzale alcuni volontari stanno staccando dai camion le bandiere e i manifesti con la croce. Ma Beppe! Ordini di stamattina, il carico non può avere nessun simbolo della Croce Rossa. Stai scherzando, spero. Ordini precisi da Roma. Ma è un suicidio. Gli elicotteri americani dall'alto vedranno solo dei camion bianchi. Il primo mitragliere un po' cowboy prima ci spara e poi ci chiede chi siamo. Dai, qui siamo a Kafka, guarda, è ridicolo. Senti Enzo, lo sai, se potessi decidere io salterei immediatamente su quei camion e andrei a Najaf. Ma io non posso. Tu sei libero, se non te la senti, resta a Baghdad. Figurati. Ma guarda, ma così è davvero un suicidio, Beppe. Non risponde. Mi volta le spalle e se ne va furibondo. Va bene, adesso ci penso io. Vado in una stanza, stacco la bandiera della Croce Rossa dal muro e me la infilo nello zaino. Ne vedo un'altra ripiegata su un ripiano e, ops, dentro anche quella. Vado in cucina da Dorian e Francesco. Gli chiedo un manico di scopa. Capiscono al volo e lo svitano dallo spazzolone che stanno usando. Trattasi di furto? Mi faccia causa la Croce Rossa italiana. Ci facciamo due risate quando torno. Se torno. I due camion sono pronti, con le sole insegne sbiadite della mezzaluna sulle portiere e il tetto bianco. Aprirà il convoglio quel catorcio che la Nissan di Garib, seguita dai due vecchi Ford della mezzaluna. In macchina con noi c'è anche Salah, il braccio destro di Beppe, un iracheno dal volto mefistofelico che è stato maggiore nell'aeronautica e che rimpiange Saddam. Ma mi chiedo se è con noi per aiutarci o per controllarci. Chi lo sa, ma così è l'Iraq. È difficile sapere chi è davvero chi è di fianco. In uno dei due camion c'è un alto esponente dell'esercito del Mahdi, che è la nostra assicurazione sulla vita. L'unica cosa che ci fa davvero paura sono gli americani. Usciamo dalla città. Imbocchiamo la Baghdad Bassora. Garib è molto nervoso. Perdiamo il contatto con i camion. Garib vomita imprecazioni in arabo nel telefonino, poi inverte la marcia, salta sull'altra corsia. Taglia la strada a due o tre macchine che passano strombazzando. Torna indietro a velocità pazzesca, zigzagando da una corsia all'altra. Eccoli là i due camion, fermi sul ciglio della superstrada. Merda, si è spaccato il cambio. Il solito problema. In Medio Oriente non c'è la cultura della manutenzione. L'unica è caricare tutto su un camion solo. Sì, ma sarà sovraccarico. Speriamo bene. È già l'una, il sole brucia feroce. Ci saranno 48-50 gradi, dai ragazzi, forza, forza! I camion si mettono culo a culo, alzano le piattaforme e comincia il trasbordo. Gli iracheni si incasinano, inciampano l'uno nell'altro, toppano, sbattono, si intralciano. Make a chain, suggerisco. Ma chissà come si dice in arabo. Non mi si inculano di pezza, continuano a portare ognuno la sua scatola da un camion all'altro decuplicando il lavoro. Allora mi incazzo e comincio a urlare in italiano. Porca puttana, rabacci del cazzo! Il politically correct è un lusso da tempi tranquilli. La volete fare o no questa catena porca? E tiro giù quattro bestemmie di quelle rotonde molto toscane che farebbero rivoltare nella tomba anche Pietro Aretino. Li prendo per le spalle, li metto in fila e gli dico: dovete restare fermi. Fermi, capito? Ta, ta, ta, ta. Il ritmo è la chiave. Tutti ridono. Poi ripetono in coro ta, ta, ta, ta, ta, e la catena parte. Solo che adesso tutti cercano di consegnare la scatola a me. Ma insomma, in 10-15 minuti il carico è trasbordato. Gli uomini mi stringono la mano, mi abbracciano e mi fanno "You are a good man". Ma sono un good man perché gli ho urlato addosso? Garib ride e mi fa "Amico mio, hai capito bene come si fa con noi arabi, eh? Bisogna strillare". Nel caldo feroce del primo pomeriggio, seguiti dal vecchio Ford sovraccarico, entriamo nella periferia di Najaf. La situazione è pesante. Si sentono esplosioni dappertutto. Ci sono combattimenti molto duri intorno al cimitero. Dobbiamo prendere strade e stradine polverose. Un sistema invisibile di staffetti ci sta guidando. Qui un uomo esce dal portone e ci fa segno di voltare a destra. Qui un ragazzino ci manda a sinistra. Là un vecchio accovacciato a vendere cavolfiori Si suggerisce di andare dritto. Ora Garib è sudatissimo. Basterebbe una strada sbagliata per andare dritti dritti tra le braccia degli americani che stanno accerchiando la città. Ogni tanto, prima di un incrocio, Garib chiede: Uko Dababa. C'è un carro? Dababa è un'antica parola che significa qualcosa che cammina pesantemente con rumore. Fino a un certo punto, la gente risponde: Makou. Non ce ne sono. Poi, alla fine, qualcuno risponde: Ehi! Sì. Tocca a me. Prendo la bandiera della Croce Rossa fissata a un manico di scopa. Apro la portiera e scendo lentamente in strada. Bene, ci siamo. Ora vediamo cosa sai fare, vecchio mio. Dietro l'angolo c'è un carro armato americano. Forse l'equipaggio è nervoso. Forse hanno l'ordine di sparare o forse no. Ma noi non lo sappiamo. Palle fredde, vediamo che succede. Sventolo cautamente da dietro l'angolo la bandiera con la croce rossa. Poi la sventolo più forte. Sbircio dietro lo spigolo. È un Bradley. Il Bradley è una specie di rospo color sabbia su una strada color sabbia tra case color sabbia. Sta lì, indifferente, tetragono, acquattato, pronto a sparare la sua lingua vischiosa per catturare l'insetto. Solo che l'insetto sono io, cazzo. Sono stato carrista. So esattamente com'è fatto dentro un carro armato. Ho nel naso l'odore della plastica dei seggiolini, dell'olio del motore. Mi sono familiari le levi di guida, i periscopi, la torretta di puntamento. Conosco quella leggera claustrofobia che ti prende al posto di guida e la sensazione di invincibilità blindata quando ari la strada con un gran rumore di cingoli, ma visto quei sandali sulla strada polverosa, un carro armato è un'altra cosa, eh. Il primo Bradley non si scorda mai, specialmente se sei dalla parte sbagliata della mitragliatrice. Sventolo ancora la bandiera. Faccio un passo. Mi riparo dietro un palo della luce e urlo: Hey boys! Italian Red Cross! Don't shoot! Don't shoot! Il rospaccio non fa una mossa. Faccio un passo laterale e mi metto in vista, pronto a schizzare al riparo del palo di cemento. In una mano la bandiera, nell'altra il distintivo dei volontari del soccorso. È ridicolo. Da laggiù non riescono certo a leggerlo, ma forse per un ragazzotto dell'Ohio o del Wisconsin fa legality. Ecco, come quando un poliziotto viene avanti tenendo il distintivo in una mano e la pistola nell'altro. Solo che qui i distintivi, come chiacchiere, stanno a zero. Sono le 3 del pomeriggio. Ho la gola secca, ma non credo dipenda dalla calura. Faccio un altro passo di lato, cauto. Sbircio indietro. Al riparo, dietro l'angolo, Garib e Salah mi guardano tesi. Ma vaffanculo, mi porto in mezzo alla strada sventolando disperatamente la bandiera con la sensazione che da un momento all'altro mi faranno secco. Continuo a urlare: Red Cross! Don't shoot! Con la sensazione di camminare in equilibrio su un filo. Il rospo è sempre lì, immobile, acquattato nella sabbia, non dà segno di vita. Io mi chiedo chi saranno i ragazzi che da lì dentro mi stanno guardando. Se il capocarro sta per ordinare smoke him, come dicono quando si tratta di far fuori uno. Io faccio segno a Garib di avanzare lentamente con la Nissan e quell'imbecille accelera e schizza via brusco alle mie spalle. Lo segue il camion dei medicinali. Passato. Raggiungo anch'io piano piano l'altro lato gridando Thank you! Thank you! All'indirizzo dei carristi invisibili. Penso un po'. Sinceramente grato che non mi abbiano sparato. Rientro in macchina. Salah mi stringe la mano e mi dice con voce grave sì, che sono stato coraggioso. Sti cazzi, Salah! Dammi la bottiglia dell'acqua che ho la gola secca! tornato da Najaf. Grande esperienza umana, consegnato i medicinali. Portati fuori donne e bambini nascosti nel camion. Molto sangue. Stato in casa a Sadr. Entrato mausoleo Ali. Visto morire guerrigliero sotto miei occhi. Incontrato comandante esercito al Mahdi. Cagato sotto casa torretta Bradley, che si spostava tenendomi di mira. Incontrati Marines che stavano pian piano entrando a piedi in Najaf. Lussata clavicola. Ricoverato ospedale italiano. Grandi foto. Scusate imprecisioni e stile telegrafico. Scrivo solo mano sinistra. Tutto bene. Forse dovrò interrompere viaggio. Presto racconto. Vado in giro per Baghdad e sono stanco. Stanco di questa atmosfera, delle esplosioni, delle polemiche. Stanco di correre, di vedere gente o morta o incazzata. Stanco di temere non di essere ucciso, ma piuttosto di essere rapito, che è peggio. Soprattutto stanco di una vita che, da queste parti, invece che migliorare, peggiora ogni giorno, ogni ora. Adesso c'è l'ultimatum. Il governo ha dato ai miliziani poche ore per arrendersi. Poi le notizie che arrivano, ininterrottamente. Una bomba al mercato di Mosul, 7 morti. Gli americani che a Kut sparano a un minibus della scuola, 5 studenti uccisi e chissà, in questi pochi minuti in cui scrivo, quanti lutti ancora. All'alba partirò per Najaf. Ci sarà anche Enzo. Per lui è la seconda volta. Najaf, proprio al centro dell'inferno. Stavolta pare vero, ma non lo dite a nessuno, è un segreto. È il giorno giusto, forse, per capire. Magari anche per capire chi davvero non vuole la pace. Spero di tornare presto. Spero intanto di tornare. Mettiamola così. Nelle prossime 24 ore ho la possibilità abbastanza concreta di crepare. Ovviamente non succederà, Ma se dovesse succedere, sappiate che sono morto felice facendo quello che più mi piace al mondo. Viaggiare in paesi che non hanno mai visto un turista prima di me. Una mina sulla strada, come ce ne sono in tutte le strade dell'Iraq. Un boato. Il nostro convoglio è colpito. Abbiamo fatto appena 40 chilometri in direzione di Najaf. L'esplosione fa saltare i vetri di un'ambulanza e di un camion carico di medicinali. Si infrangono così, ancora prima di Babilonia, le speranze di un viaggio di pace. Decidiamo comunque di andare avanti, verso Najaf. Non sono d'accordo, ma sono l'unico. All'entrata di Najaf ci sono i miliziani, incappucciati, a controllare gli ingressi. Oggi sembra tutto tranquillo. La gente affolla le strade fra i segni della lunga battaglia. Poi improvvisamente l'inferno. Restiamo un paio d'ore rintanati in una stradina della città vecchia. Con Enzo scherziamo, mentre tutti attorno sparano, abituale esercizio per sopravvivere al fronte. Una maniera per esorcizzare la paura, per non pensare che veramente siamo dentro la guerra. Finalmente, dopo alcune ore, riusciamo a liberarci dall'assedio. Usciamo con qualche patema da Najaf, torniamo una decina di chilometri indietro e ci rifugiamo a Kufa, nella moschea. Io decido di partire. Enzo rimane. Garib parla con Mohamed, che è un po' il capo dell'esercito del Mahdi. L'auto è trovata, è la stessa che ha fatto da apripista nel viaggio di andata. Enzo allora mi saluta e mi abbraccia. La stanchezza prevale sulla paura e mi addormento. Mi sveglio di soprassalto all'altezza di Malmudia, dove all'andata ci hanno attaccato, perché improvvisamente Mohamed, che è alla guida, lascia la strada principale e fa un giro largo, aggirando la cittadina. Mi allarmo, ma lui mi tranquillizza, mi dice che lo facciamo per non avere rogne. Passiamo così indenni quello che tutti chiamano il crocevia della morte e finalmente arriviamo a Baghdad. Ci lasciano al Palestine. Sono preoccupato, aspetto Enzo. Mi aveva chiesto la cassetta con la sua intervista, ma non si fa vivo. Mi arriva una telefonata da Roma, dalla Farnesina. Siamo dell'unità di crisi, ha notizie di Enzo Baldoni? È sparito. Gli dico che l'ho lasciato lì a Kufa. Poi chiamo De Santis, ma ha il telefono staccato. Allora chiamo la Croce Rossa a Roma. Centofanti mi dice che la colonna è rientrata regolarmente a Baghdad. È tutto a posto. Iraq. Enzo Baldoni forse rapito. Autista ucciso. Justin Alexander, un pacifista inglese, racconta di aver appreso dell'uccisione di Garib e del rapimento di Enzo. Garib sarebbe stato assassinato in un agguato mentre con Baldoni tornavano nella capitale. Niente di confermato, è solo una notizia di seconda mano. Le voci si rincorrono. Al momento non c'è nessuna conferma che appartenga a Gharib il corpo dell'uomo ucciso a Malmudia. Una zona così pericolosa che nessuno è potuto andare finora direttamente all'ospedale. Intanto arriva una risposta. Helen Williams, una volontaria gallese, amica di Gharib, anch'essa sul convoglio di ritorno da Najaf, racconta: proprio 5 chilometri prima rispetto a dove eravamo stati attaccati il giorno prima, siamo stati attaccati ancora. E questa volta ho visto. Una forte esplosione davanti a noi ha sollevato macerie e detriti. La strada è scomparsa in una nube di fumo. Siamo andati avanti in fretta, non c'era modo di fermarsi, dovevamo continuare ad andare. Fermarsi avrebbe significato essere uccisi. L'autista dell'auto bianca ci sorpassa, ferito al volto, e ci urla di andare avanti. Scrive ancora che quando sono arrivati a Baghdad ha chiesto agli italiani della Croce Rossa cosa fosse successo a quella macchina, ma loro gli hanno risposto bruscamente: fatti gli affari tuoi. Arriva il video. Un gruppo islamico denominato Esercito Islamico dell'Iraq ha annunciato il rapimento di Enzo Baldoni. Il gruppo ha inviato all'emittente televisiva Al Jazeera le immagini del reporter italiano. I terroristi lanciano un ultimatum di 48 ore al governo. Entro questo termine, l'Italia dovrà ritirare le proprie truppe dall'Iraq per avere salva la vita di Baldoni. Intanto su Enzo scrivono di tutto. Se esaminata cinicamente, cioè con lucidità, la disavventura di Enzo Baldoni sconfina nella commedia all'italiana. Già ieri abbiamo scritto: un uomo della sua età, moglie e due figli a carico, avrebbe fatto meglio a farsi consigliare dal Pitour, anziché dal diario, la località dove trascorrere vacanze, sia pure estreme, si dice così? Evidentemente, da buon giornalista della domenica, egli ha preferito cedere all'impulso delle proprie passioni insane per l'Iraq, piuttosto che adattarsi al senso comune. Ciascuno fa come gli garba. E se a lui garbava di mettere a repentaglio la ghirba allo scopo di essere la caricatura dell'inviato speciale, forse sognando di diventare un Oriano Fallaci o un Ettore Mo, c'è poco da obiettare. Molto da obiettare, invece, c'è sul fatto che adesso tocchi allo Stato italiano di toglierlo dalle pettole, dal milanese, peste. Vabbè, non facciamoci guardar dietro, spendiamo quanto c'è da spendere per riportarlo a casa, questo bauscia simile a certi tizi, i quali durante il weekend indossano la tuta mimetica e giocano ai soldatini nelle brughiere del Varesotto. Chiudiamo un occhio sull'aspetto finanziario e apriamo l'altro sul paradosso cui assistiamo. Lui, Baldoni, ritratto con in mano un mitra o una mitraglietta, non essendo pacifisti ci intendiamo poco di armi, fra due beduini o similari, sorride felice perché è corso in aiuto dei più deboli, in lotta contro i cattivi americani. Baldoni è inebettito dalle ideologie nate dalle ceneri delle ideologie. Legge davanti alla telecamera il comunicato dei suoi aguzzini, in cui si dà del criminale a Berlusconi, e ne gode. Glielo leggi in faccia che gode, e il video non inganna. Ma come si fa a schierarsi coi tagliatori di teste? Come si fa a schierarsi con chi è stato con Saddam? Come si fa ad affiancare banditi islamici che per tutto ringraziamento ti rapiscono e magari spezzano l'osso del collo? Fuori da ogni logica. Il paradosso ingigantisce se si tiene conto che il filo iracheno Baldoni, candidato alla decapitazione, è un pubblicitario. Mestiere più capitalistico non esiste, il quale ha sempre lavorato per aziende americane. Scusate, cari lettori, più pirla di così è inimmaginabile. Ti guadagni la pagnotta, e non solo quella, ideando e realizzando spottini consumistici per le multinazionali odiate a sangue, le odio al punto da farti fotografare armato con un paio di beduini. Poi arriva agosto, le schifose multinazionali che ti strapagano ti garantiscono contrattualmente lunghe ferie, e tu, pistola, vai a trascorrerle in Iraq,

Voglio che ognuno versi una goccia di vino sulla barra. E che cazzo, mica tutto a voi, eh? In fondo sono io che pago, datene un po' anche a me. Voglio che si rida. Avete notato? Ai funerali si finisce sempre per ridere. Ma è naturale, no? La vita prende il sopravvento sulla morte. E si fumi tranquillamente tutto ciò che si vuole. Non mi dispiacerebbe se nascessero nuovi amori. Una sveltina su un soppalco defilato non la considererei un'offesa alla morte, bensì un'offerta alla vita. Verso le 8 o le 9, senza tante cerimonie, la mia bara venga portata via in punta di piedi e avviata al crematorio, mentre la musica e la festa continueranno fino a notte inoltrata. Le mie ceneri? In mare, direi. Ma fate voi. Cazzo mi frega. Spettacolo Zonker, musiche originali Chris Jan, voci recitanti Maria Faggiano, Giuseppe Valzania, Cristian Crescente, Roberto Mercadini, brano di chiusura Pepe Medri, testi tratti da Blogdad di Enzo Baldoni, Torre di Babele di Pino Scaccia, cartoline da Baghdad di Francesco Locane. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Cristian Ceresoli, autore dell'opera musicale Cantata contro la guerra, Verso la dolorosa. A Roma, Teatro Palladium, 19 e 20 dicembre 2023. Ben trovato! Ciao, grazie, ciao. Raccontaci di questo progetto. È una canzone che invece che durare 3, 4, 5, 6 minuti ne dura 57 e che ho iniziato a scrivere nel 2009, quindi sono su 14 anni. I professori della terra con la barba e gli occhiali mi hanno sempre detto non è possibile, non si può scrivere una canzone così lunga, sei un idiota, sei un matto. E invece martedì e mercoledì presentiamo una specie di anteprima che è nata nel ventre di Sweet Time e con una banda di piratesse, di fuorilegge, di pirati, di musicisti e musicisti straordinari, ed è una nostra canzone che poi debutta e farà il giro un po' del mondo per le Americhe nel 2026-2027 ed è un po' una nostra risposta ai trafficanti del mercato delle armi di squallore. È una canzone ribelle e festosa che cerca appunto attraverso la musica e attraverso la scrittura per la serata del Palladium di scatenare una specie di festa mondiale dove uomini, donne, bambini, animali di qualsiasi genere possono partecipare e cantare insieme a noi. Insomma, crediamo che molto meglio cantare che bombardare. Usiamo appunto la musica, la canzone, la poesia nel modo più fruibile, condivisibile e popolare possibile per manifestare questa nostra urgenza, questo nostro bisogno, questo nostro desiderio, questa nostra voglia di rivolta a quel tipo di squallore. Due domande. La prima è come è nato tutto nel 2009 e poi se nel corso degli anni si è trasformata l'idea, il progetto. Certo, la scrittura si è sviluppata, appunto è nata tra il 2009 e il 2010, poi abbiamo provato a realizzarla, ma come dicevo prima in termini più poetici è stato pressoché impossibile, e quindi poi comincia la grande avventura mondiale della merda che io ho scritto per Silvia Gallerano, e molti anni dopo i protagonisti di quella prima stagione si sono ritrovati e un po' fanno così tanti progetti della nostra vita, soprattutto quelli contrastati, e quando poi abbiamo trovato una casa, è un luogo, è una condivisione con Spin Time, non solo, è incredibile il numero di persone che sono coinvolte in questo progetto, quando poi abbiamo trovato complicità e corrispondenza con tutta una serie di realtà, distanze di persone, siamo riusciti finalmente a portarla in vita. Non ancora, infatti le serate del Palladium hanno questo di straordinario, che è come se fossimo all'ottavo mese e mezzo di una nuova creatura che viene al mondo, stiamo per partorire, e io credo che per scrivere non si sia mai da soli, ma si scrive sempre dentro una comunità, con quella comunità che non è solo composta dagli straordinari musicisti con cui ho la fortuna di lavorare, col direttore musicale, con la Gallerano eccetera, ma con la comunità delle persone che verranno al Palladium martedì e mercoledì, e qui finalmente probabilmente nascerà martedì e mercoledì, anche se poi avrà tutta la sua tempo per essere perfezionata. Anche questa, come già con La Merda, è stata un'opera che è stata contrastata, forse perché troppo diversa, forse perché troppo strana, o forse perché completamente matta, quindi questo è un po' il suo percorso. Una follia che è stata molto contrastata, osteggiata, ostacolata, e tutto sommato però martedì e mercoledì probabilmente al mondo. Come avete pensato la messa in scena? Non c'è nessuna divisione tra chi ascolta e chi canta, o chi recita e chi assiste alla recita. È una stessa luce che ancora è assolutamente provvisoria, come ho detto si tratta di una prova aperta, il titolo poi definitivo sarà La Dolorosa, è una luce che è la stessa per tutte e per tutti. E per tutte. Ci sono dei leggii sui quali non siede uno spartito con delle note, ma delle parole, e che vengono cantate per 57 minuti. Ed è così nella semplicità di una piazza di paese, di cortile, dei tramonti d'estate, insomma. È un'opera di grande condivisione, di grande apertura, di grande semplicità. È un po' veramente, noi usiamo questo termine poetico di festa mondiale, perché è proprio un po' come venire e partecipare a una festa. Tant'è vero che noi abbiamo anche insegnato dei pezzi, per esempio in settimana delle bambine e dei bambini. E quindi chi vorrà potrà cantare insieme a noi, quindi in qualche modo provare a immaginare come una sagra di paese, diciamo così, in cui ci si ritrova e si partecipa a un rituale che è caratterizzato da quello che dicevo prima, che utilizza l'entusiasmo per contrastarsi allo squallore delle guerre, dei trafficanti di armi. Io volutamente non mi aggancio alla cronaca, lascio che poi le parole poetiche si aggancino e che siano le persone che ci stanno ascoltando in questo momento facciano i loro riferimenti. L'unica cosa che sto dicendo un po' in tutte le interviste, che ritengo sia molto importante, essendo stata scritta prevalentemente dal 2009, è ambientata in una Israele-Palestina contemporanea, quindi con il conflitto israele-palestinese in corso e con i bombardamenti sulle case delle bambine e dei bambini, ma non è stata un'operazione opportunistica, l'avevamo scritta molti anni prima e non potevamo ovviamente immaginare il riaccendersi del conflitto israele-palestinese e del salto a Gaza. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? I riferimenti migliori sono Instagram, il profilo di Silvia Gallerano, il mio profilo, Cristian Ceresoli, il profilo di Spin Time. Poi per gli aspetti tecnici c'è sicuramente il sito del Teatro Palladium, ancora meglio per riprendere la metro e Garbatè e arrivare alle 8 e un quarto, 8 e mezza martedì e mercoledì 10:20 direttamente si partecipa. L'anteprima dell'opera musicale cantata contro la guerra, Verso la Dolorosa, a Roma, Teatro Palladium, 19 e 20 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore Cristian Ceresoli. A presto! Grazie, ciao, grazie, grazie a tutti e a tutti. Con Ferdinando Vaselli, autore e regista dello spettacolo Figlie, a Roma, Fortezza Est, dal 21 al 23 dicembre 2023, ben trovato. Grazie, grazie Federico e grazie a tutti. Raccontiamo questo progetto. Partiamo da un paio di anni fa, quando Alessia Berardi, una delle due attrici che insieme a Laura Riccire interpretano personaggi dello spettacolo, mi è venuta a casa e mi ha detto: io voglio fare uno spettacolo su una signora che ho incontrato in una spa, che tra l'altro dice che è la madre di Teo Mammutteri, vabbè. E quindi è uscita fuori l'idea di creare una black comedy, perché alla fine questo è, con dei toni surreali, con dei risvolti sorprendenti sulle relazioni di potere, e in particolar modo sulle relazioni di potere di dipendenza dalle figure maschili. Quindi abbiamo molto poco furbescamente evitato la parola patriarcato nella presentazione dello spettacolo, però le figure maschili diventano appunto il tema, il punto di riferimento per riflettere sulle relazioni di potere. È una commedia, uno spettacolo divertente, ma come al solito, come è costume del nostro sodalizio che dura da 15 anni con Alessia, parlare, usare anche la chiave tragica, quindi si può parlare di tragicommedia, o appunto come dicono gli inglesi, black comedy, insieme a Laura Riccioli, che è l'altra attrice con cui abbiamo lavorato per questo spettacolo, e abbiamo lavorato anche molto su di loro. Quindi è una storia di finzione, però che ha a che fare anche in qualche modo con le loro vite, con il rapporto tra di loro e con il rapporto anche in certo senso con delle figure di potere che hanno attraversato la loro vita. La drammaturgia che ho scritto io è nata da un dialogo continuo con loro, abbiamo lavorato molto insieme con delle improvvisazioni sul soggetto, sulla scrittura, e facendo fare un percorso di trasformazione anche di età, perché loro interpretano due personaggi che sono molto più vecchi di loro, cioè intorno ai 70-75 anni. Come avete pensato la messa in scena? Dovendo raccontare, dovendo rappresentare diversi luoghi dove si svolge questa storia, abbiamo utilizzato la capacità di Laura di disegnare, perché Laura è una bravissima disegnatrice, illustratrice, collabora anche con gli eventi dell'estate romana, collabora con il Teatro Quarticciolo, insomma si occupa molto anche di grafica, disegna benissimo, e quindi le strutture scenografiche nascono da dei disegni che avvengono anche dal vivo durante lo spettacolo e che trasformano il luogo a seconda del posto dove è ambientata la scena. Abbiamo utilizzato lo strumento analogico, cioè il disegno dal vivo. Poi ho pensato che comunque il teatro avviene qui e ora, ed è molto più bello vedere una creazione d'opera che avviene in quel momento, ed è anche per certi versi un simbolo della forza generatrice dell'opera d'arte, perché entrambi i personaggi hanno a che fare con l'arte, essendo una vecchia attrice e l'altra una vecchia performer che vivono appunto all'interno di questa spa di lusso. Due settantenni per un titolo che è Figlie. Esatto, perché in fondo non si smette mai di essere figlie, è una condizione inevitabile di tutti quanti noi, no? Si può essere genitori, ma si può anche non essere genitori, e invece figlie per forza siamo stati figli o figlie di qualcuno. Loro sono anche due figli di buona donna, perché ne combinano di cotte e di crude, perché passano il loro tempo alla spappa di scherzi. Però fondamentalmente, un po' come dei burattini, un po' come Pinocchio, sono delle marionette che piano piano diventano degli esseri umani veri e propri, cioè prendono coscienza della propria condizione di figlie, ma anche di liberarsi della eredità e dell'oppressione da parte dei padri. Il saggio di un tedesco che si chiama Peter Sloterdijk racconta la storia dell'umanità partendo dal presupposto che coloro che non sono stati figli, che non hanno generato figli, che sono figli, anzi figli di buona donna, come si dice, figli di NN, hanno assunto una carica rivoluzionaria, da coloro che hanno fatto le grandi scoperte fino ad arrivare a Shakespeare, ecco, tanto per rimanere in tema teatrale. Siamo partiti da questo. Lo spettacolo Figlie a Roma, Fortezza Est, dal 21 al 23 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e regista Ferdinando Vaselli. A presto! Grazie a te Federico, grazie a tutti. Ciao! Con Marcello Cava di Teatro Mobile per presentare lo spettacolo Jean-Paul Sartre, Racconto di Natale, a Roma, Santa Maria in Campitelli, 19, 22, 23 e 24 dicembre 2023. Ben trovato! Ben trovato a te e a tutti voi. Partiamo dall'esperienza Teatro Mobile, ce ne parli? Teatro Mobile è un'associazione che da tanti anni oramai opera in una maniera abbastanza originale, nel senso che i nostri spettacoli sono sempre, quasi sempre, dei viaggi in cuffia, in cui lo spettatore, visitatore viene munito di un'audiocuffia e partecipa a questa esperienza ascoltando dal vivo gli attori e i musicisti, e in uno spettacolo che, diciamo, è sempre pensato per il luogo che lo ospita. Facciamo queste operazioni in luoghi archeologici, spazi urbani, spazi naturali, ogni tipo di contesto, cercando, insomma, di valorizzare il luogo in questa maniera, con un intervento senza impatti ambientali, totalmente ecosostenibile, ma anche di forte emozione per chi ne fruisce. Arriviamo allo spettacolo, di cosa si tratta? Lo spettacolo conclude questa nostra manifestazione che è Ascolto il tuo cuore città, che abbiamo fatto nell'ambito di Cultura in Movimento del Comune di Roma, e sono gli ultimi 4 eventi di questa kermesse di Viaggio in Cuffia Diversi, ed è quello che forse ci sta più a cuore, perché ti propone questo testo straordinario che scrisse Jean-Paul Sartre nel 1940 in un campo di prigionia insieme ad un gesuita. Scrissero questo racconto di Natale, proprio come le recite natalizie, che però era ambientato appunto in un campo di concentramento in cui c'erano naturalmente prigionieri francesi e internati di ogni genere. La struttura è quella proprio di un racconto di Natale, quindi non è uno spettacolo teatrale, simile a una recita con canti e con parti recitate, e la storia straordinaria che viene raccontata è quella di Barionat, il figlio del tuono, praticamente un palestinese oppresso dai romani, che erano i dominatori in quel momento, e che propone al suo popolo di non fare più figli, di estinguere questo popolo al fine di piegarsi alla volontà del dominatore. Questo nel 40 naturalmente era una risposta che davano i prigionieri ai nazisti che opprimevano appunto la Francia nell'anno in cui fu scritta, e oggi ovviamente suona fortemente attuale. Tutto questo accade nel momento in cui poi arriva un angelo e gli dà la notizia che invece nasce un bambino che salverà il mondo, e questo produce una scrittura straordinaria, interessantissima, bellissima, di grande impatto, e adatta diciamo a credenti e a non credenti, perché chiaramente Sartre era ateo e si confronta quindi col tema del Natale in una maniera molto molto molto interessante, però rispettando insomma, cioè, l'arrivo dei Re Magi, rispettando diciamo tutti i cliché della struttura della recita natalizia tradizionale. Lo proponiamo all'interno di una chiesa, appunto perché ci sembra importante farlo, e lo facciamo con un cast di attori, con Evelina Mignaggi che canta insieme alle musiche di Felice Zaccheo, insomma in un contesto abbastanza originale ed interessante. Cosa hai apprezzato del testo di Sartre? L'elemento proprio più interessante è questa sua straordinaria attualità, cioè il fatto che comunque un filosofo ateo ed esistenzialista si confrontasse con il tema del Natale, col tema della buona novella, col tema della speranza, della possibilità di un cambiamento del mondo, e lo facesse quindi accettando il cliché del racconto di Natale, tra virgolette, però mettendoci dentro una forza politica straordinaria, cioè cogliendo il pretesto di fare una recita in un campo di concentramento e parlare però anche dell'oppressione che veniva subita allora. E questo chiaramente oggi suona molto attuale, perché sentendo queste parole appunto di un popolo oppresso che pensa di autoestinguersi, costretto a fare conti con questa idea per confrontarsi con l'oppressione politica, ci sembra oggi quanto mai attuale ed interessante da riascoltare e da rivedere. È un'operazione sicuramente audace a mio avviso. Come avete pensato la messa in scena? Le messe in scena del Teatro Mobile sono sempre molto semplici, noi non crediamo a scenografie messe in scena, la scenografia è il luogo che ci ospita, in questo caso è una chiesa straordinaria, bellissima, e sempre i luoghi sono meravigliosi, non sono dei contenitori, sono essi stessi dei contenuti, e c'è l'ascolto in cuffia che ovviamente permette una qualità di ascolto straordinaria rispetto agli spazi delle chiese che rimbombano e tutto, e poi c'è la dimensione molto semplice, la recita natalizia, quindi è una situazione molto molto semplice in cui si alternano le scene di Barionat a questo presentatore che poi racconta quello che sta accadendo e si fa i conti con queste figure, la figura dell'angelo che è straordinaria, l'abbiamo poi vista in Vento, si è incerto per un angelo senza ali che arriva lì nella notte, da questa notizia che appunto sta nascendo un bambino che salverà il mondo, e c'è poi questo tema straordinario, anche interessante, poi il tema della nascita, perché De Barionat, la sua donna è incinta e deve fare i conti col fatto che invece lui ha fatto un editto in cui decide che non dovranno nascere più bambini, e quindi c'è anche questo tema secondo me straordinariamente interessante, che è il tema appunto della natalità. Ci dai tutti i riferimenti web per tutte le informazioni? Tutto naturalmente gratuito, previa prenotazione, tutto sta nel nostro sito che è www.teatromobile.eu, e siamo anche noi naturalmente tutti i social, nelle piattaforme Instagram, Facebook, eccetera. Lo spettacolo Jean-Paul Sartre, Racconto di Natale a Roma, Chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, 19, 22, 23 e 24 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Marcello Cava di Teatro Mobile. A presto! Grazie, a presto a tutti voi, ciao! Con Antonio Rezza e Flavia Mastrella per presentare la trilogia Rezza-Mastrella a Roma, Teatro Vascello, dal 12 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024. Ben trovati! Ciao! Ciao, ciao! Si tratta di 3 lavori, Amistad dal 12 al 17 dicembre, Photo Finish a 20 anni dal debutto dal 19 al 31 dicembre e Hubris, l'ultima produzione teatrale, dal 3 al 14 gennaio. Ci presentate un po' questi 3 lavori? Sì. La contaminazione tra Fratto X, che è lo spettacolo portante di questa opera, e la poetica letteraria di Fabrizio De André, suggeritaci da Dori Ghizzi. Quando finisce lo spettacolo che mi diverto più a fare con il corpo, e sarà il primo che abbandonerò per problemi fisiologici, e quindi lo spettacolo più gioioso e drammatico che abbiamo mai fatto, integrale, frontale. E Hubris è quello che è anche candidato al mio spettacolo dell'anno, che rispetto all'anno scorso è cambiato tantissimo, quindi chi lo vedrà non lo riconoscerà. Ci sono gli ingredienti per venire tre volte. Sono tre lavori molto diversi. Amistade si avvale di mapping, di nuova tecnologia, è una fusione tra la problematica di Fratto X e il pensiero di Fabrizio De André. Invece Photo Finish è un lavoro che invade la platea, Antonio riesce a stare ovunque, è coinvolta la gente. Tra l'altro quest'anno è stato un periodo piuttosto vivace con il film di Flavia, il film di Antonio e il libro di Antonio, giusto? Sì, sì. Esatto. Siamo stati scoppiettanti. Io ho fatto pure un paesaggio virtuale da frequentare in 3D. Siamo anche stati in Cina e in Lituania con Amistade e sono state due esperienze bellissime. Spero ripetibili. Vogliamo ritornare in Cina, non perché la Lituania, è bellissima, però vogliamo ritornare in Cina perché c'è più pubblico, sono tanti, quindi non c'è mai il problema e non ti devi porre il problema se a teatro sarà pieno o no, è pieno in ogni caso. Il Teatro Vascello è la vostra residenza romana, spieghiamo anche un po' la scelta di questi tre lavori da portare in questa trilogia che vi ha dedicato il teatro. Amistade è stato pochissimo a Roma, ma sono lavori che raccontano un po' tutta la fascia di esperienze che abbiamo avuto, cioè il corpo nel teatro, il corpo sul palco con tante persone, perché Hubris è con attori e non attori, sono 8 persone in scena, è un lavoro corale, mentre invece Photo Finish è un lavoro, ci sta Antonio e Ivan Bellavista, e fa parte della nostra primissima esperienza del 2003. La scelta di questi lavori, c'è anche Hubris che poi torna a riprendere. Speriamo che vinca il premio Ubu, perché io vado patito per i premi, cioè è la mia più grande gioia prendere i premi in varie discipline, quindi mi diverte molto non prendere i premi, vedere gli altri che magari non li prendono, è quella la monica che fa scattare la soddisfazione di prenderlo. Però devo dire che il fatto di fare anche Photo Finish, che è uno spettacolo così distruttivo per il corpo, a 20 anni dal suo concepimento, è uno spettacolo così attuale, tutto diventa attuale. Dei tre non saprei cosa consigliare, quindi l'unica alternativa è venire a vedere tutti e tre, perché poi noi probabilmente per un anno poi faremo probabilmente Bahamut per qualche giorno l'anno prossimo al Vascello, ma poi dovremo fermarci un anno perché dobbiamo fare un film nuovo, uno spettacolo nuovo, dobbiamo fermarci, quindi chi vive a Roma approfitti adesso, perché poi per un anno è purtroppo per... ci dobbiamo ritirare, perché appunto non c'è tempo di fare qualcosa di nuovo e noi senza la novità poi ci rattristiamo. Il Capodanno quest'anno? Capodanno c'è. C'è sempre, ma non è solo quest'anno, c'è ogni anno. Abbiamo fatto caso. E facciamo l'asta al buio, dopo Photo Finish, l'asta al buio, poi la gente mangerà anche delle cose di teatro. Insomma, Capodanno è sempre una festa, lo facciamo quasi sempre al Vascello e eliminiamo il problema di cosa fare a Capodanno. Poi faremo perché anche siamo gli incontri durante questa permanenza, faremo anche gli incontri e l'8 di gennaio presenteremo al cinema Troisi Milano via Padova, che è il nostro film sul cosiddetto razzismo, quindi sarà anche lì occasione di venire a vederci. Alla Nuvola, venerdì 8 alle 17 io e Valerio Mastandrea parliamo del fattaccio, poi la sera vado a Propaganda a presentare il fattaccio, il 10 io, Flavia, Valerio Londini e Ernesto Assante facciamo un incontro, non so su che cosa, però è sempre un bel incontro, è sempre un grande incontro, e fiore all'occhiello di più libri, direi più libri, perché più libri e più liberi, io direi solo più libri. È inutile essere presuntuosi. Ma non lo sapevo che andai a Propaganda. Ma come non lo sapevi? Non l'avevo capito. 2000 volte a presentare il fattaccio, fa. Ah. 2000 volte. Però parlo anche del Vascello. Domani escono, ma queste sono cose internazionali. La Repubblica, no, il venerdì con 2 pagine su Amistade. Venerdì è un grande giorno, l'Immacolatina, noi ci fai triste la notizia, dovrebbe... mandare la notizia della trilogia. Striscia la Notizia? Sì, noi siamo amici di Antonio Ricci, viene sempre a vedere gli spettacoli. Ci perché siamo stati bambini insieme. Diamo i vostri riferimenti internet per sapere tutto il programma. Retta Mastrella? Rettamastrella.com. E poi c'è il Facebook, Retta Mastrella Facebook, Instagram, io non ci capisco niente, dove saranno. E poi c'è il Vascello, c'è il Vascello, anche il Vascello, il Vascellissimo. Rezza Mastrella, la trilogia Rezza Mastrella con Amistade, un debutto nazionale dal 12 al 17 dicembre 2023, foto finish a 20 anni dal debutto dal 19 al 31 dicembre 2023 e Hybris, l'ultima produzione teatrale dal 3 al 14 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Flavia Mastrella e Antonio Rezza, ci si vede a teatro. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Con Stefano Massini, autore e interprete dell'Interpretazione dei Sogni a Roma, al Teatro Argentina, dal 5 al 21 dicembre 2023. Ben trovato. Ciao, buongiorno e ciao a tutti gli amici di Onda Rossa. Che operazione è questa? Beh, chi è che non ha mai voluto sapere come leggere i propri sogni? Il teatro in fondo fa questo da sempre, no? Insegna a leggere dentro se stessi, a leggere nella propria fantasia, nella propria emotività, nel proprio vissuto. Il teatro è un'interpretazione dei sogni. E allora questo grande libro che ha cambiato la storia dell'umanità, cioè l'interpretazione dei sogni di Freud, non poteva avere casa migliore che arrivare su un palcoscenico. Io racconto come Sigmund Freud è arrivato a porsi la domanda di che cosa ci fosse dietro i sogni e soprattutto come fare a avere la chiave d'accesso per accedere ai sogni. Come è nata l'idea, il progetto? Io ho dei tempi molto lunghi, detesto il meccanismo per cui ogni anno si debba per forza fare una cosa nuova e appena è nuova è già vecchia. Ho dei tempi lunghissimi, questo mio lavoro ha iniziato a essere scrupolosamente scritto, riscritto, maneggiato, modificato, la bellezza di qualcosa come 13 anni fa. È a Brescia nel 2011 che per la prima volta io esco con una cosa pubblica sull'interpretazione dei sogni, quindi sono passati 12 anni da allora e appunto 13 da quando cominciai. In questi anni, con la passione che ho sempre avuto per la contaminazione dei linguaggi diversi, l'interpretazione dei sogni è diventata un romanzo pubblicato da Mondadori, è diventata uno spettacolo che fu fatto al Piccolo, adesso diventa un'altra cosa ancora con un testo completamente diverso, più di un anno che gira per l'Italia. Questa volta racconto proprio come Freud, pioniere nella storia della scienza, abbia un passo dopo l'altro gradualmente, lentamente proceduto a costruire appunto l'interpretazione dei sogni. In questo senso, come hai approcciato il testo? Beh, l'ho approcciato come una grande avventura. Questo è un testo pioneristico, noi assistiamo a questa specie di eroe che come Prometeo regalava il fuoco agli esseri umani, Freud è un Prometeo che regala invece agli esseri umani un ulteriore fuoco che è quello dell'accesso alla propria interiorità, alla propria psiche. Lo racconto in scena come una grande avventura, ripeto, che passo dopo passo ci conduce a far luce su quello che fino a un momento prima era fondamentalmente il grande buio. Ecco, è un testo molto appassionante per me che lo presento, per me che lo porgo. Io sono una figura strana, sono uno scrittore che sta a mezza strada con la performance, con la narrazione, con il teatro, sono un cantastorie che, come sempre facevano i cantastorie, a momenti racconta le storie dall'esterno e a momenti ci entra dentro e diventa un personaggio, prende la prima persona singolare. Diciamo, è un mio modo che chi mi segue conosce di avvicinarmi a tutte queste storie con un fare epico, ecco. Quali sono a tuo avviso gli elementi centrali del testo di Freud e su quali di questi hai voluto puntare? L'interpretazione dei sogni fondamentalmente racconta la grande sfida di ogni essere umano nel tentativo di raccontarsi la verità su se stesso, di cercare la verità su se stesso. Nei nostri sogni noi puntualmente ci diciamo come stanno veramente le cose dentro di noi, intorno a noi, ed è una verità spesso talmente inaccettabile che siamo costretti a renderla occulta, a renderla nascosta, a nasconderla dietro un linguaggio che è un linguaggio sempre cifrato, sempre altamente metaforico, oso dire un linguaggio altamente teatrale. Il primo titolo dell'interpretazione dei sogni era la drammaturgia onirica, quindi Freud si rendeva conto che il teatro era una grande metafora di quello che noi ogni notte facciamo nei nostri sogni. Quindi in questo racconto c'è la grande censura dentro noi stessi, c'è la nostra incapacità di dirci la verità su di noi e su quello che sentiamo, su quello che proviamo. È una grande storia che alla fine riguarda ciascuno di noi, perché chi è che non si ritrova all'interno di ciò che Freud racconta, di ciò che Freud descrive? Chi è che non ha bisogno di una chiave ulteriore, sempre nuova, per accedere ai propri materiali interiori? Rispetto alla scienza, secondo te mantiene una sua modernità, attualità? Assolutamente sì, la lettura di Freud e dei sogni è stata poi corretta, messa a punto. Teniamo presente che passano 123 anni dalla prima pubblicazione dell'interpretazione dei sogni, quindi un secolo e un quarto sono tantissimi nella storia della scienza, quindi è chiaro che la versione di Freud è stata riletta, rimaneggiata, corretta, rivista, però nella sua fondamentale intuizione rimane di un'attualità sconcertante e bellissima. Freud ti sta dicendo: ognuno di noi di notte vede un teatro, perché poi lui stesso lo chiama così, vede un teatro che non è, come per secoli si era ritenuto, qualcosa di assolutamente inutile, farsesco, una specie di grande messa in scena grottesca nella quale noi mettiamo in scena delle immagini senza alcun senso, senza alcun significato. No, Freud ti racconta come invece quella messa in scena è come se ce l'ha un significato. È una messa in scena coperta, nascosta, ma che esiste un metodo per analizzare. Alla fine la grande serietà dei sogni è la grande lezione di Freud e anche la cosa secondo me più commovente, più emozionante di questo lavoro. L'interpretazione dei sogni è fondamentalmente un grande testo che si può racchiudere in un imperativo, ecco, in un consiglio che Freud dà a ciascuno di noi, ed è: prova a guardarti dentro, non passare oltre, non aver paura, ascolta la tua voce interiore che ti sta evidentemente dicendo delle cose, tenta di dirti delle cose. Non c'è niente di casuale nel mondo della cosiddetta natura, e noi che della natura facciamo parte abbiamo quindi un meccanismo interiore che è altamente necessario. In che cosa consiste questa necessità? Che cosa ti stai dicendo di notte in sogno? Questa è la grande domanda di Freud ed è la domanda che sostiene, regge e dà un senso a tutto questo spettacolo. Lo spettacolo L'interpretazione dei sogni a Roma, al Teatro Argentina, dal 5 al 21 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore e interprete Stefano Massini. A presto! Grazie Federico e grazie a tutti voi. Con Isabella Russinova, direttrice artistica della settima edizione del festival Thematic Exhibition on Human Rights, ovvero sia Terra. Quest'anno il tema è Terra vittima della guerra. Ben trovata. Grazie, grazie dell'invito. Sì, insomma, Terra vittima della guerra, perché gli strumenti che l'uomo ha in possesso ora per autodistruggere sono davvero molto, molto, molto pericolosi. È bene che l'opinione pubblica, tutti quanti, siano sensibilizzati su questo pensiero. E Terra, che vuole raccontare i diritti umani attraverso le arti, musica, cinema, teatro, letteratura, ha proprio questo impegno, quello di raccontare tematiche urgenti che riguardano i diritti umani del nostro tempo attraverso appunto le arti, per stimolare attraverso empatia ed emozione il pubblico appunto su queste urgenze del nostro tempo. La prima giornata è andata in scena al Cinema Aquila, partner di Ter, con una maratona di film che appunto portavano dentro di sé queste tematiche. Ci sono stati degli incontri con gli autori molto interessanti che il pubblico ha gradito molto. esatto, e che si potranno poi ritrovare su Indie Cinema, la piattaforma di cinema indipendente che è partner del festival e che continua a far vivere tutti i contenuti del festival appunto sulla sua piattaforma. Il prossimo appuntamento è alla Casa Internazionale delle Donne con Letteratura e Arte, dove si dialogherà con gli autori delle opere esposte e presentate, e poi anche questi contenuti potranno essere poi visualizzati e seguiti attraverso Indie Cinema e canale Europa TV, una grande piattaforma di TV che è partner sempre del festival. E poi ci ritroveremo live invece il 13 gennaio presso lo spazio OFF a San Cosimato con protagonista la musica. In particolare ascolteremo la performance dei Manifesto, questo giovane gruppo molto amato dai giovani che li hanno potuti seguire su X Factor e che sono molto sensibili a tematiche dei diritti umani, che saranno presenti con il loro concerto tra musica e parole allo spazio OFF il 13 gennaio. E poi si concluderà il Teatro Palladium, altro partner del festival, insieme a Roma 3 con il teatro, dove sarò in scena io con uno spettacolo e con un testo dedicato a Eva Mameli Calvino, che è stata la prima botanica italiana, grande scienziata e grande attivista per l'ambiente. Tante collaborazioni e tanti gli spazi che fanno vivere questo festival. Sì, e questa è una delle prerogative appunto del festival, quella di muovere le arti nei diversi spazi e di avere molti partner, appunto l'Università Roma 3, la Libreria Raponi, il Cinema Aquila, la Fondazione Palladium, la Casa Internazionale delle Donne. Sono spazi che fanno vivere questo festival e si nutrono dei contenuti del festival, che anno dopo anno appunto cerca di sensibilizzare sui diritti umani appunto attraverso le arti. E devo dire che hanno dopo anno raccolgo sempre più soddisfazione, più sorrisi da parte del pubblico che segue il festival, perché capisce, assorbe appunto questa passione e anche urgenza che il festival vuole offrire proprio per raccontare quello che è davvero importante sapere del tempo che viviamo. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere il programma nel dettaglio? Allora, il sito www.terfestival.com, Instagram ter_festival e la pagina Ter su Facebook. Settima edizione del Festival Ter, Thematic Exhibition on Human Rights, a Roma dal 15 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Isabella Russinova. A presto! Grazie, a presto e seguiteci! Con Teresa e Rossana Coratella, artiste e ideatrici del progetto Arts for Peace, a Roma il 19 dicembre 2023, ben trovate. Grazie, ben trovati a tutti. Buongiorno, eccomi Teresa, Rossana. Raccontiamo un po' di quest'idea. Io sono Rossana Coratella, insieme a mia sorella Teresa, siamo due artiste, spesso collaboriamo, uniamo le nostre arti, la pittura, la poesia, ma realizziamo anche video arte e performance insieme. Abbiamo pensato di realizzare qualcosa che potesse richiamare l'attenzione sul conflitto israelo-palestinese, quindi perché no mettere a disposizione l'arte per un messaggio di pace universale per tutti. Abbiamo quindi pensato, per la giornata della solidarietà umana che si festeggia il 20 dicembre, di realizzare una video art con due ragazzi adolescenti che sono i protagonisti e che rappresentano un po' questo schieramento palestinese-israeliano, che però è uno schieramento più che altro di adulti. Infatti vedrete poi in questa video art come questi apparenti nemici sono poi amici, persone che si aiutano tra di loro. In età adolescenziale, i ragazzi che non hanno costruzioni e che vedono oltre riescono anche a creare una solidarietà tra di loro e ad aiutarsi nel momento del bisogno. Come nasce tutto? Nasce appunto da questo desiderio, come ti dicevo, noi come artiste trattiamo sempre tematiche sociali, siamo molto interessate al tempo in cui viviamo, alla contemporaneità, perché vogliamo che l'arte non sia solo una cosa effimera, ma che dietro ci sia qualcosa di importante. Comunicare e parlare di tematiche sociali attuali e importanti attraverso il linguaggio dell'arte ha uno sguardo, una traiettoria a 360 gradi, quindi è un linguaggio che colpisce, diventa quasi una missione, oserei dire. Come sarà, come si materializzerà il 19? Il progetto è stato strutturato così: ringraziamo innanzitutto il Municipio Centro Storico di Roma, nella persona del consigliere Sergio Grazioli e dell'assessore Claudia Santoloce, che hanno sostenuto questa idea, e per l'occasione verranno realizzati 250 manifesti che saranno affissi su tutto il primo municipio, e all'interno di questi manifesti ci sarà un QR code dove le persone potranno accedere direttamente su questo QR code, accedere a questa video art, e quindi partirà questo contest dal 19 dicembre fino al 29 dicembre, quindi per 10 giorni. A parte i canali istituzionali, abbiamo già riscontrato interesse e sostegno da parte dei media e anche da alcuni partner che sono l'associazione Abili Oltre, l'associazione Ace Galatea Roma e il quotidiano online Match News, che ringraziamo. Come accederà il pubblico al progetto? Principalmente attraverso questi manifesti e attraverso questo QR code, magari incuriositi dal manifesto potranno visionare poi il video. C'è anche su un manifesto artistico dove appunto troveremo questa ragazza palestinese e questo ragazzo israeliano che si tengono per mano sullo sfondo della Basilica di San Pietro, che è un altro simbolo del cattolicesimo. Ci sembrava bello dare anche un messaggio di unione tra le religioni, religioni che non dovrebbero dividere ma unire, avere quindi anche un messaggio di multiculturalità, di rispetto reciproco delle diversità, e quindi l'intero video art è stata proprio girata nei pressi di San Pietro. Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più? Al momento la video art è caricata sul canale YouTube Art4Tees, ma invitiamo le persone a rimanere incuriosite girando per le città dove troveranno questo manifesto Art4Tees, una scritta in rosa, quindi abbastanza visibile, e dal QR code potranno accedere direttamente al canale YouTube, oltre che ai nostri canali social di Rossana Coratella e Teresa Coratella, e al canale istituzionale del Municipio Centro Storico di Roma. Il progetto Arts for Peace a Roma, martedì 19 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alle artiste Teresa e Rossana Coratella. A presto! Grazie, grazie a tutti. Ciao! Con Dario Calfapietra e Daniela Giombini per presentare il numero 9 della fanzine Tribal Cabaret, fresco di stampa. Ben trovati! Ciao! Ciao! Ciao! Partiamo dalla fanzine, raccontiamo un po' che cos'è. Con degli amici abbiamo iniziato questa fanzine nel 1982, poi dall'82 all'85 uscirono ben 6 numeri. Del nucleo iniziale poi siamo rimasti in 3, che abbiamo portato avanti la fanzine dal numero 2 al numero 6, e poi c'è stato un bello stacco fino allo scorso anno. Per tornare al passato, gli ultimi 2 numeri avevano un allegato sonoro, una compilation su cassetta contenente il numero 5 tutti i gruppi italiani e il numero 6 i gruppi italiani ed europei, tra cui un gruppo spagnolo e alcuni francesi. E del numero 5 è stato stampato dalla Spittal Record lo scorso anno un LP chiamato The Other Side of Futurism, che conteneva appunto i gruppi presenti nella cassetta, che è dell'area noise sperimentale industrial romana di elettronica. La conteneva varie interviste, perché la particolarità è che noi, pur essendo associazioni, intervistavamo anche gruppi non solo italiani ma anche stranieri, se passavano per Roma, tipo i Cult, i Virgin Prunes, Sister Sommersi, tutti quelli del periodo del genere che ascoltavamo all'epoca, che erano un po' punk, elettronico, un po' di gotico, ecco, perché tutti ci dicevano che eravamo una fanzine gotica per eccellenza. Come è nata l'idea della fanzine? La fanzine è nata perché avevamo un gruppo e l'idea era di propagandare il gruppo, no? E farci conoscere facendo degli scambi nel mercato indipendente come si usava allora. E la fanzine ci ha dato modo, in un periodo in cui non c'era internet eccetera, di entrare in contatto con altre realtà italiane, cioè gruppi di Bologna, di Tano, del Veneto. Quindi è un mezzo per scambiarci. Io mandavo la cassetta a te, magari il gruppo di Bologna la mandava a me, o quelli dell'Attack Punk che vedevano la loro fanzine, oppure c'erano i Laibach che mi mandavano il primo demo con la fanzine da loro, informativa, io gli mandavo Treble Cabaret. E l'idea di tornare in stampa lo scorso anno? Allora, intanto devo dire che io da esterno, questo lo dico, erano bravi negli anni Ottanta, perché veramente leggerle oggi quelle cose sono veramente fantastiche, perché loro hanno acchiappato questi gruppi quando ancora non erano super famosi, lo sono diventati perché hanno intervistato i Litfiba nell'84, quindi prima di Desaparecido, i Sister Sommersi che ancora stavano per pubblicare il loro primo album, e i Caos che forse avevano pubblicato Dreamtime, che era l'album dei Toro. E parliamo di cifre, 500 copie del numero 5, 1000 copie del numero 6. Erano talmente bravi che Roccherilla li chiamò a lavorare per loro, e quindi in questo modo si prese quelli bravi. Quando ci siamo conosciuti con Daniela, passando ai giorni nostri, entrambi scrivevamo su dei web magazine che, quanto belli e interessanti, sono un po' di tritacarne, per quello che capito io, perché pubblichi un articolo, un'intervista, insomma ci perdi il tempo per farla bene, e poi dopo 20 minuti è stata già sommersa dai post successivi. Quindi prima abbiamo deciso di cominciare a scrivere insieme, e poi così io ma perché riprendiamo la tua vecchia fanzine, insomma facciamo le interviste anziché metterle nel web, buttarle lì in mezzo a tutto il resto, non le mettiamo su carta? E lei era un po' scettica, certo sembrava una proposta un po' folle, e invece nel nostro piccolo funzionato, perché del numero 7, che è uscito poco fa, dicembre 2022, sono andate via tutte le 150 copie. Del numero 8 anche 150 copie, poi ne abbiamo ristampate altre 50, e di questo numero 9 appena uscito abbiamo fatto una tiratura di 200 copie. Diciamo che poi è diventata un po' un'esigenza avere una rivista che racchiudesse i nostri gusti musicali, che non siano quelli degli altri. Le riviste in cui collaboravamo, poi c'era il gusto degli altri, cioè un po' tipo un minestrone con tanta roba. Noi invece comunque siamo un po' più di settore e non ci allarghiamo più di tanto, pur avendo dei gusti che vanno al post-punk, al garage, all'industria, però più o meno è quel genere lì. Come è strutturata questo numero 9? Intanto c'è questa cosa di metterci una compilation in audiocassetta. Abbiamo ripreso proprio quel, poi erano stati il numero 5 e il numero 6 negli anni 80, abbiamo ripreso con questa cosa della compilation, che sembrava ancora una cosa un po' folle, però a questo punto abbiamo detto facciamola tutta e facciamola così, vintage fino in fondo. I gruppi che sono nelle nostre compilation sono gruppi internazionali, non solo romani, non solo italiani, ma bensì in questo ultimo numero ne abbiamo uno svedese e uno cinese, e nei numeri precedenti abbiamo avuto anche australiani, inglesi, francesi e via dicendo. Poi ci abbiamo gli allegati, all'allegato c'è sempre il booklet della compilation, che è un proprio libretto dove c'è una scheda descrittiva per ogni band. E poi in questo numero qui in particolare c'è anche un fumetto inedito del 1987 disegnato da Cristiano Rea, disegnatore purtroppo comparso a marzo di quest'anno, con i testi di Marcello Blasi, che era il cantante di una band romana che si chiamava Move, anche lui scomparso nel 2010. E Daniela l'ha ritrovato nei meandri dei suoi archivi Io facendo scambio di fanzine, spedivano fanzine da tutta Italia, io mandavo la mia e fra l'altro ho tanto materiale anche di band romane, eccetera. Ho ritrovato fra le fanzine questo fumetto, copia originale perché era adatti scritto a macchina per scrivere da Uccello Blasi su disegni fotocopiati da Cristiano Rea. E penso di avere quella copia anch'io perché ho chiesto alla moglie, non ce l'ha, per cui è rimasta la copia. Ci sembrava giusto condividerla. La cosa più terribile era la copertina, perché la copertina evidentemente l'avevano fatta a colori, come si usa, no? Nei fumetti, in bianco e nero, perfetto, fatto a china, eccetera, e la copertina invece a colori. Il problema è che avendo poi loro fatto questa copertina in qualche modo, era venuto un disastro. Io ho dovuto fare un lavoro assurdo al computer di grafica per riuscire a ridare dignità a questa copertina, perché altrimenti era più bello il fumetto interno che non la... che era veramente un peccato. Ma il titolo originale era Sei troppo buono, ti licenzio. Noi l'abbiamo chiamato Backstage, l'argomento di cui tratta dentro. Oh, è comunque divertente e ben disegnato. La fanzine sono 48 pagine. La cosa che noi orgogliosi è che abbiamo tanti collaboratori che collaborano con noi soltanto per la voglia di esserci, quindi gratuitamente, e ci danno articoli, interviste, questa volta abbiamo gli AIDS, abbiamo PG Harvey e via dicendo, gente che scrive per testate musicali importanti, Blow Up, Rolling Stone, Classic Rock. Beppe Bino, che era il direttore di Rilla, no? Anche lui ha scritto delle cose in questo numero. Ci date dei riferimenti web per saperne di più? Siamo sia su Instagram che su Facebook come Tribal Cabaret, che è scritto Tribal Cabaret. Per chi vuole avere un rapporto diretto con noi, consigliamo di scriverci una mail all'indirizzo Tribal Cabaret Fanzine, quindi tribalcabaretfanzine@gmail.com, perché poi abbiamo pure una bella mailing list che usiamo non spesso, quando la facciamo veramente una bella newsletter fatta bene. Essendo una cosa cartacea, a far sì che resti tale. È riservato più che altro a un mercato di collezionisti, anche perché poi oltre la cassetta, che è già un fisticcio, in ogni numero c'è qualche gadget, segnalibri, adesivi, eccetera, oltre tutto il papier. C'è stato il numero passato, c'era anche un CD dei Garçon Fatale. Come 1950, sì. Esatto. E comunque una fanzine, sì, però non è più come era negli anni 80, fotocopiata. Adesso è fatta in tipografia con carta pesante, la copertina di cartoncino. I neri sono neri e sono più grigi, ecco. E poi le foto sono anche la maggior parte originali, fatte da noi o da amici fotografi. Il numero 9 della fanzine Tribal Cabaret, fresca di stampa. Un saluto e un ringraziamento a Dario Calfapietra e Daniela Giombini. A presto! Ciao! Grazie, grazie a te. Ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.